Siamo alla soluzione del nostro quiz, che vi poneva come domanda quale dei seguenti animali ha una accelerazione maggiore. Avevamo detto lo scoiattolo, lo struzzo, l'elefante. La risposta giusta è lo struzzo, e vi dirò pure che l'elefante e lo scoiattolo hanno un'accelerazione praticamente uguale. L'accelerazione negli animali, quindi in esseri dotati di gambe, è strettamente legata alla forza con la quale si riesce a colpire il suolo e a generare una spinta in avanti. Questa forza naturalmente è anche connessa alla forma del piede. Ora attenzione, avete presente come sono fatte le gambe dello struzzo? Dal suo corpaccione piumato escono queste due gambe che a metà presentano un angolo, no? E si è portati a pensare che al centro di quell'angolo ci sia il ginocchio che fa da snodo. Ebbene, quella è una caviglia, non è un ginocchio. Ovvero, lo struzzo ha un piedone enorme e l'anca sta più su, sotto le piume, ha una forte muscolatura che scarica tutta la sua potenza sul piedone, appunto. Uno struzzo raggiunge i 50 km orari su una distanza di 10 metri.